ragazzo tu. Sì, bravo, da voi, per carità. E allora, hanno intervistato questo psichiatra e ha detto che questa qui è gente che ce l'ha nel cervello certe cose, piano piano le cose vanno avanti e si da arrivare a mattare, capito? Questa gelosia ce l'hanno sin da piccoli e poi va sempre avanti, sempre peggiorando di più e arrivano a fare queste cose. Ma io non sono cugino di nessuno. Beh, penso che tua moglie sarà geloso un po', si vede che anche tu lo puoi dire e ti chiede di rimorchiarsi a tua moglie, non sei geloso. Vabbè, quello ci sta, ma gli altri giorni non mi interessano. Ah, certo. Ma questo qui era geloso perché la tipa l'aveva mollata e aveva paura che se ne andasse fuori si mettesse con qualche altro tipo, sicuramente, capito? Perché lei si doveva laureare e partire fuori a lavorare, quindi lui voleva bloccarla, non voleva che andasse fuori. Ha bloccato tutta l'ora, ma io dico che ogni persona deve essere libera di fare ciò che vuole. Poi se a te ti vuole realmente bene e che non gli ha dato fastidio, sicuramente ritornerà con te. Gianni, Carlo da questa, ciao Antonio, buonasera. Buonasera Carlo. Ciao Carlo, ciao, buonasera anche a te. E Antu, prima ero con Franco sotto casa, hai visto c'è un'antennina che se la vedi non gli dai neanche 2 lire, come si diceva, e invece fa il suo lavoro. Sotto casa eravamo, sotto casa, ma c'è un'antennina corta, sarà massimo 50 centimetri, ed esce bene. Ma Franco California stai dicendo? Sì, Gianni, sì, con lui. Sì, ma qual è quella che c'è la carica fatto? Esatto, sembra un'antenna di autoradio quasi, capito? Sì, lo so, la conosco. Beh, quelle antenne lì sì, vanno bene in queste frequenze, ma non c'hanno una banda larga, capito? Vanno bene su certi canali, però su canali alti cominciano a fare stazionare il furto. Sì, però sulla 27, insomma, la puoi usare tranquillamente. Sta piovendo come non mai. Piovendo? Io non me ne rendo nemmeno conto perché sono sdraiato nel letto con l'apparecchio acceso e con le luci blu da notturno, perché ti sembriamo di notte. Eh sì, ormai già sta facendo buio, alle 6:15, 6:20 è già buio, soprattutto giornate nuvolose così. Sì, sta piovendo, prima eravamo giusto vagocciolando e adesso ho visto che si sente forte la pioggia. E io ho acceso da Antonio, stavo guardando un po' in banda laterale se c'era qualcuno, ma erano tutti quanti inglesi. E allora mi ha contentato, ho girato e ho sentito ho fatto una risata così, perché stai ridendo? Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare sul 10. No, ho schiacciato io. Ah, ho capito. KK. E beh, Antu, come va la tua radio? Comunque, come va? Ho schiacciato infatti ho sentito mentre parlava Gianni, ho detto c'è qualcuno che sotto vuole o vuole entrare. Ho capito, non fare nulla. Come lo senti Antonio di segnale o Carlo? Guarda, qua arriva a fondo scala da me. Fatti in conto. Ma poi forse tu c'è un po' di più. Ah, magari abbiamo lo stesso segnale, vero Carlo? Sì, solo che la radio tua, Gianni, la sento, forse Antonio o sta parlando lontano dal microfono, perché il segnale è buono, sia il tuo che quello di Antonio, è fondo scala per me, 9+20 qua, solo che la radio tua, Gianni, è bella, la voce pulita, nitida, è la voce tua, invece Antonio o ha troppo amplificato il microfono, lo sento un po' nasale, capito? O è lontano dalla radio, capito? Ma è solo quello, gliel'ho detto anche ieri. Guarda se va meglio. Sì, adesso hai parlato più vicino forse al microfono. L'ho abbassato un po' pure. Così è bello nitido, ecco, lascialo così Anto. Vabbè allora. Io sono lasciato 5 minuti, questa radio è accesa e poi ne accendo un'altra, quindi le faccio girare un po' perché sennò qua mi si rovinano. E allora ti ha detto un po' di smitta. Comunque Gianni, ti ricordi che l'altra radio che avevo qua che mi creava disturbi era proprio la radio, Comunque qua non sta piovendo, Emissioni di troppe spurie, capito? Quella radio lì, perché ho trovato dei siti dove ne parlavano, addirittura dicono che in Svizzera l'hanno vietata la vendita di quella radio proprio per quel motivo lì. Ma la spurie, per quello che dava fastidio, quindi disturbava il televisore. No, televisori no, però entrava nelle casse audio dei computer, capito? Anche nel palazzo di fronte mi hanno sentito, te ne rendi conto? E cosa ne hai fatto? Perché non te la metti in macchina quella lì, così almeno non hai problemi. Sì, infatti è quello che voglio fare, capito? L'altra, quella piccolina che usavo prima, quella lì l'ho venduta. E adesso quando trovo un attimo me la sistemo in macchina. Solo che volevo mettere una basetta fissa, però molte antenne me le stanno sconsigliando, quella non usarla, non esce, quella così colà, quella è troppo grande. E allora mi sa che metto la base magnetica, così quando ho voglia di usarla in macchina, attacco la base magnetica e poi la levo. Perché non ti prendi quella come quella che c'ho io? Quella va bene da tutte le parti, mi sento bene da tutte le parti dopo da te. Ma non l'ho fatta, ma secondo me anche io non ci arrivo. Perché non ci devi arrivare? Ancora non l'ho fatta la prova. Ma almeno mi sa che non vi ho riusciuto. Prima ce n'era una adesso. Sì, prima c'erano tanti, c'era Gambero Rosso che stava sempre vedendo, adesso è morto mi pare lui. Poi stava sempre facendo battute ridendo che lui era messo in parte. E poi ce n'erano tanti altri che hanno smesso. Almeno puoi sentire solo me a Carlo andando a lavorare, oppure a me quando accompagno i miei figli all'aeroporto, perché sennò mi sa che non c'è più nessuno. Mi ricordo che da poco avevo sentito Mirko, è una persona di una certa età, capito? E ogni tanto entrava sul 10. Quello è morto. Ah, giuradito, non l'ho più sentito infatti. Sino a un annetto fa, più di una volta lo sentivo. Sì, quello è morto, che ne aveva impiantato la stazione Claudio, gli avevano messo l'antenna, tutto quanto. Era radioamatore lui, vero? Non lo so, non penso. Era qualcuno che forse lavorava nell'aviazione, qualcosa del genere, aviazione militare. Però in pensione, anziano, era molto, molto anziano. Sì, mi ricordo che ci ho parlato diverse volte, ma guarda, sino a un anno fa più di una volta lo sentivo, mi diceva che mi sentiva forte anche in macchina andando ad Alghero, capito? Ovviamente lui essendo di Alghero, capito? più di una volta è entrato, capito? Poi non l'ho più sentito. E infatti ho pensato magari si è stufato, boh, però mi dispiace, dai, perché era, mi sembrava una brava persona, così io l'ho conosciuto alla radio, tutte le volte entrava gentile, ti faceva la chiacchierata tranquilla, capito? Ce n'era uno che stava sempre costruendo la pelle, mi ricordo. Scusami Carlo, stavo cambiando la radio, non ti ho potuto rispondere. Sì, sì, ho capito, però io so che è morto. Mi dispiace perché era una persona educata, dai, entrava, faceva la chiacchierata tranquilla, a volte ci ho passato anche almeno una mezz'oretta a chiacchierare, sempre a parlare di radio, di antenne, capito, molto persona tecnica, sempre si vede che era un appassionato, capito, non lo sapevo, vabbè, pazienza, pace all'anima sua come si dice. Mi sa che erano andati in due, l'avevano piazzato tutto loro, mi pare che era l'altro Claudio e l'altro, non mi ricordo chi, l'avevano piazzato alla stazione. E qualche cosa mi sa che gliel'ha venduta anche Claudio. Può essere, perché c'è anche Alessandro che è un altro radioamatore lì ad Alghero, è un mio collega, lavora all'aeroporto, lui c'ha il traliccio, ha un sacco di antenne ed si sente con Claudio spesso. Cappala. Poi ce n'era un altro ad Alghero, adesso non mi ricordo come si chiamava. Quello lì che aveva una bella stazione, ci ha venduto tutto perché hanno rifatto tutto il tetto, poi ci ha dovuto smontarle tutte antenne, tutto quanto, e alla fine ci ha venduto anche tutti gli apparati. Ho capito. Ma da voi finito avevano a proposito, cazzo. Da me hanno completato la cosa, l'impalcatura, adesso fa tutto il giro del palazzo, stanno ultimando il cappotto perché avevano sospeso tutto il periodo estivo, erano almeno 6 mesi che erano andati via. Sono rientrati e 20 giorni fa hanno cambiato tutti i portoncini nuovi, hanno messo il portoncino blindato a tutti. Niente, adesso stanno continuando col cappotto, mi è toccato attaccare la caldaietta, il filo dell'antenna l'ho dovuto staccare dal muro perché stanno passando anche lì, e quindi ce l'ho penzoloni e l'ho legato con un filo perché se no lo sporcano, capito, l'ho staccato proprio dalla parete, e quindi sto aspettando che finiscano e dovrebbero ultimare i lavori, hanno detto entro il 31 di dicembre, speriamo che ci liberino dall'impalcatura perché non ne possiamo più, siamo senza cortile, quindi ci mancano i parcheggi, anche accedere al garage è un casino, capito, perché ci sono i tubi innocenti, disagi che non finiscono mai e siamo così almeno da un anno e mezzo, ancora hanno da completare il tetto, il cappotto, e ci devono cambiare gli infissi, sono venuti 3 volte a prendere le misure, non ti dico altro. Cavolo, no, pensavo avessimo finito perché tu mi avevi detto che avevo ripreso, quindi pensavo che avessimo finito, invece ancora non hanno finito di fare le cose. Questo è il Cobra, non so come stia uscendo perché sono una volta che non lo accendo. Ah, va benissimo già. E ha una modulazione diversa dall'altro, si sente che è cambiato radio, però niente da dire sia come segnale che come radio. Capo, beh, sono contento perché questo è un apparecchio che mi piace, l'ho pagato perché l'ho pagato un meridina, però già un bel apparecchio. Se ce li hai, tu c'hai tutto il mobiletto, mi avevi fatto vedere, falli girare, in effetti se li accendi ogni tanto già male non gli fa, capito? No, il garage era successo che sparivano le prime cifre della frequenza, del frequenzimetro, e poi come l'ha acceso si è ripreso, dove si sono caricati i condensatori di nuovo e si è ripreso e adesso sta andando bene, ma intanto come era fermo, vedi, perde qualcosa. Esatto, perché stando fermi un po' è umido, è, capito, tante cose si rovinano, le radio sono fatte per, insomma, per lavorare. Vabbè, qua umido già non ce n'è, però sono anche chiuse col mobile, quindi non è che sia, però lo fa, deve essere a furia di non funzionare, si scarica i condensatori e ti fa quei lavori di capito. Ma voi lo sentite questo sotto? Sì, lo sentiamo. Anto, riprendi. Anto che stava battagliando col figlio, sta già camminando in girello, te l'immagini, sembra ieri che sia nato. Adesso c'ha quasi un anno e inizia il mal di schiena, capito, perché devi stare appresso, iniziano a camminare, a arrampicarsi, e... però è il periodo anche migliore, dai, che ti danno anche tante soddisfazioni quando sono piccolini così. Beh, sta già dicendo papà, poco fa sta dicendo papà. Già lo sentivo in sottofondo, si sentiva papà, papà, papà. Sono troppo belli, io non so come fa se certa gente a trattare male i figli. Quella lì l'ha abbandonato, stavo dicendo anche lui, l'ha abbandonato per andare dal suo compagno, che si era mollata con l'altro marito, e andava dal compagno che era fuori, l'ha mollato così, bambino, ti ricordi? L'ha lasciato un libro pieno di latte, come se il bambino fosse indipendente a quell'età, ma... Sì, mi ricordo, praticamente è morto di senti, poveraccio, la fine del dopo gli ha fatto fare, ma quella lì è fuori di testa, già ancora è sotto processo, chissà che gli diano l'ergastolo. Ma secondo me certe persone non ragionano, se no certe cose non le avrebbero fatte. Puoi dire di quel ragazzo che ha ammazzato una ragazza, oggi ho sentito un psicologo che stava parlando e ha detto che praticamente queste persone ce l'hanno la gelosia già da quando sono piccoli, poi aumenta sempre di più se da portarli a fare questi atti qua, capito? Non è una cosa che ti nasce dal momento, è una cosa che va progressivamente. Vabbè, comunque sono persone, insomma, non come si deve, o gli manca qualcosa, c'è poco da fare, perché uno che non si rende conto che la vita degli altri va rispettata a prescindere dalle decisioni che prende, uno ti lascia, eccetera, tu non è che lo puoi uccidere così come se stessi facendo fuori, che ne so, una gallina, mi capisci? Evidentemente qualcosa non va, capito? Qualcosa che non funziona nel cervello c'è. Uno si deve fare anche una ragione, se una persona non è più innamorata se ne deve fare una ragione e dire vabbè, è stata onesta che me l'ha detto e basta, tutto lì, come ho fatto anche io, quando mia moglie mi ha mollato io mica sono andato l'ho ammazzata, per carità, mi frequento anche adesso io con mia moglie, figurati con la mia ex moglie. Infatti, e purtroppo è così, nella vita uno deve essere pronto ad affrontare anche queste cose e basta, e non te ne fai una ragione, tu continui con la tua, ma non è che l'altra persona la devi annientare così e eliminare, no, è quelle. Già là ho visto le foto di quel ragazzo, va a baciare ad Amaku proprio. Sì, sembra un soggetto, sembra, per carità, non ha nemmeno il viso di un assassino, di uno delinquente, capito? Non ce l'ha quella faccia, tanto è vero che dicevano che era un bravo ragazzo, studiava all'università, tutto quanto, questa ragazza si doveva laureare in Guraridda, per non farla partire fuori l'ha ammazzata, capito? perché lei voleva far presa la laurea, voleva andare fuori a lavorare e quindi lui non voleva che partisse. E invece a lui gli è partita la sesta o l'embolo. Comunque meno male l'hanno beccato e penso che con quello che ha fatto gli esce il conto, è perché se dovessero dargli e riconoscergli che ha premeditato tutto e più altre aggravanti quale la crudeltà, sequestro di persona, insomma, quello l'ergastolo gli danno, vedrai. Cioè, che l'abbia premeditato non c'è dubbio, gli hanno trovato le buste dentro la macchina, il coltello, per cui la cosa era già premeditata, sapeva già che doveva ammazzarla, metterla dentro le buste, ci aveva già pensato a tutto, poi l'ha messa in questo posto dove non l'avrebbero mai trovata, perché era un buco scavato nella roccia, eccetera, quindi se non avesse sentito il cane l'odore non l'avrebbero mai trovata, era buttata dentro questa roccia, questo buco che c'era nella roccia e c'era una specie di caverna, di cose, l'ha buttata lì. Lo so, quello è, insomma, spero che lo mettano in prigione e ci buttino via la chiave, così. È purtroppo una storia triste, ma l'ha fatto quel gesto lì, è giusto che paghi, capito? Già l'ha detto anche il padre, che ha chiesto scusa, ma i genitori non c'entrano niente. Spero che gli diano l'ergastolo, perché è giusto così, non c'è altra altre possibilità non gliene avrei dato a una persona del genere. I genitori avranno solo la colpa di averlo messo al mondo una persona del genere, si sentiranno in colpa per averlo messo al mondo, perché da un figlio certe cose non te le aspetti e sono proprio delusioni grossissime quelle. Vabbè, purtroppo le mele marce ci sono dappertutto, dai, in questo caso è proprio marcia vero visto. Sì, ma se ne stanno sentendo troppe di queste cose, capito? Se ne stanno sentendo troppe. L'agguato che hanno fatto a quella dottoressa che stava per andare in pensione, poveraccia, ha lavorato una vita, stava per andare in pensione e che te l'hanno ammazzata. E il marito ferito, lo stesso che era un dottore. Se ne sentono di tutti i colori, o che prima non c'era informazione, che adesso sta impazzendo la gente, non si sa se era prima che c'era poca informazione, ma ne stanno succedendo una cosa dopo l'altra, poi all'ora di pranzo quando senti il telegiornale sempre ti passa la voglia di mangiare, perché senti certe cose che proprio non ti scendono giù. Sì, diciamo che queste notizie già i mass media le hanno sempre date, però purtroppo ultimamente sta capitando spesso e non so se è proprio l'era di internet che cambia anche la testa alle persone, e credimi che già è così, perché i social fanno, diciamo, mostrano una realtà non virtuale, capito, costruita, e non è quella vera, e molte volte se trovi le teste matte ci credono e cambiano radicalmente modo di pensare, modo di fare, a volte combinano anche più di un pasticcio. Guarda, io su internet ci sto e ti dico anche una cosa, questo periodo mi sta prendendo male, nel senso che sto uscendo poco perché mi sono affezionato a delle persone che mi trovo bene e mi piace starci, cantarci insieme, parlarci, praticamente sono delle famiglie virtuali, capito? Dove ci si trova tutti insieme, la sera si fa il salotto, eccetera. Io mi trovo bene, la verità, però poi pensandoci bene sto pensando, ma sto facendo bene a stare in casa attaccata a questa cosa, oppure è meglio che me ne esca, me ne vada in giro. Quello lì ti attira troppo, mi capito? Diciamo che sono abitudini che uno si prende e poi sta a ognuno di noi decidere qual è la cosa da fare, capito? Già non ti posso dire fai bene, fai male, e, in base alle attitudini delle persone. A te ti piace cantare, molto probabilmente tu ci stai per quel motivo lì, perché magari sei amante del canto, delle canzoni, karaoke, eccetera, e quindi lo fai per quello, e a livello di hobby così non c'è niente di male, non vedo niente di male. Il brutto invece è quando ci sono quelle persone che, per dire, passano giornate intere su Facebook a commentare, a postare, a parlare con persone che non conoscono, e poi ti fanno cambiare il tuo modo di essere, capito? E purtroppo è così. Quello che mi dici tu invece è diverso, a livello di hobby, poi che tu con queste persone ti senti più o meno tutti i giorni e ci passi delle ore a cantare, nessuno poi ti vieta di un giorno non ti va e non ci entri, punto e basta, però quella è una passione, io la vedo così. Sì, ma se non entri, per dire, il giorno dopo dico: Gianni, ma come mai ieri eravamo preoccupati, perché non sei entrato? Perché sono, hanno preso l'abitudine che ci sentiamo tutti i giorni, capito? E diventa quasi come una cosa vera, non virtuale, diventa come una cosa vera, perché le persone che ci sono ci conosciamo bene tutti, e le donne anche si sono confidate con me, eccetera, ci siamo conosciute come persone, capito? E sono delle belle persone, dico la verità, e non posso dire diversamente. Quindi la cosa a me mi attira anche non solo per cantare, perché come persona mi trovo bene, capito? Sì, sì, ho capito, però capito, tu quando il giorno che magari ti prende un'altra passione, quella inizierai a trascurarla, e penso che sia quel così. Invece la frequentazione di siti, di social media tipo WhatsApp, Instagram, Facebook, capito, che sia una cosa assillante, quando inizi a non poterne più fare a meno e la tua vita dipende da quello, capito, e tutti estranei, eccetera, allora quello è brutto, perché praticamente tu stai dando la tua attenzione, la tua, capito, verso una cosa fittizia, una cosa che poi nella realtà non esiste, perché sui social la gente scrive l'opposto di quello che veramente è, capito? Perché molti che vanno nei social dicono di essere persone diverse da quello che sono nella realtà, e tu però questo qua non lo puoi mai comprovare, perché non conosci personalmente tutta quella gente lì, ma la conosci in base a quello che loro postano, che non è sempre vero, non è sempre reale, capito? Sì, quello è vero, certo. No, io ho Facebook, c'ho Instagram, ma non sono così accanito. Gli do una sguardata così, ma scrivo tutte fesserie. Oppure ci sono quelli che vanno a provocare la gente, quando fanno le live, vanno a provocare, a stuzzicare le persone, eccetera, eccetera. Ci sono queste anche. Io a volte mi soffermo quando ci sono cose che mi interessano, tipo la notte mi guardo le cose del paranormale, che non ci ho mai creduto, però adesso mi piace vederle, capito? Mi piace guardare le live del paranormale. E me le guardo la notte, sì, quando non c'ho sonno, più mi addormento, butto il telefono dalla parte e mi addormento, ma intanto sì, quando ce la faccio le guardo, capito? Sì, è proprio così, ognuno poi alla fine vede quello che vuole. Io lo stesso non è che posso dire che col telefonino non ci passo del tempo, ma io per esempio sui social non ci vado, cioè Facebook non l'ho mai messo, Instagram idem, io l'unica cosa che ho di social è WhatsApp, che ce l'hai più che altro per le comunicazioni, eccetera, e lo usi per quello, io lo uso anche per lavoro, abbiamo la chat del del lavoro, quindi mi chiamano quando ci sono variazioni di turno, mi messaggiano lì, eccetera, solo per quello. Poi il telefono lo uso per fare ricerche di internet, oppure mi guardo tutorial, e così come la televisione. Io per esempio a me piacciono le, come si chiamano, le serie TV, no? Però serie TV su sopravvivenza, natura, scienze, capito? Quelle cose lì me le guardo tutte, e ogni tanto qualche film, se è bello e ne vale la pena, me lo vedo. Però ho capito, cerco di limitare al massimo queste cose, proprio quando non so cosa fare, capito? Allora dico, non c'ho niente da fare, e mi ha truffato il telefonino, allora mi vedo un film. E diversamente, quando non ho voglia di vedere un film, allora magari me ne sto una mezz'oretta col cellulare, o entro su YouTube, che lì è pieno di tutorial per aggiustare una cosa, come riparare l'altra. Però quando ci sto 20 minuti, poi chiudo tutto, il telefono, e ritorno alla mia vita reale, capito? Non ci spreco più di tanto tempo io col cellulare. Lo so bene, anch'io sono come te, me ne guardo molto anch'io queste cose sulla scienza, sugli animali, tutti i documentari mi piacciono, più che i film mi guardo queste cose, mi piacciono molto, specialmente i documentari sugli animali mi piacciono tanto. Sì, no, cerco di limitare le cose, non sono un pazzito, capito, di social, e spero di non diventarci mai neanche in futuro, per carità. A me piace confrontarmi direttamente con le persone, conoscerle, ti frequento e ti conosco e so come la pensi, perché me lo dici tu personalmente, e non che me lo dice una scrittura e una persona che non conosco, capito? Io neanche ce ne perdo di tempo così a stare ore, giorni interi. Per carità, c'è gente che, credimi, già è così, Sì, c'è gente che è proprio fissata. A me in quest'ultimo periodo mi sta prendendo, perché sono entrato in questa famiglia dove mi trovo bene, le chiamano famiglie, non le family, ognuno c'ha la sua. Praticamente mi trovo bene lì, perché si canta, ci sono i giochi, fai un po' di tutto, capito? Quindi passi il tempo, a volte dopo che faccio tutte le cose a casa, che mi faccio la spesa, che tutte le cose che devo fare le ho fatte, per rilassarmi mi metto sul divano e mi accendo il telefono, capito? E mi passa così il tempo. Capito, io ancora apprezzo di più invece il contatto personale. Infatti quando è ieri sono andato a casa, ero via Nulvi, dove c'è via Nulvi Alta, e c'è la pineta lì, come si chiama, quella pineta di Badimanna, al sesto piano. Questa mia collega c'ha un panorama in quell'appartamento, è una cosa favolosa. E praticamente il figlio ha perso le chiavi di casa, e lei aveva l'ossessione, dice, se mi aprono l'appartamento, eccetera, ho detto sostituisci solo il cilindro, e eccetera, dice, perché una volta l'ho fatto, ho chiamato il falegname, mi ha preso 150 euro. Ho detto no, prendi, togli il vecchio cilindro, lo prendi identico, della stessa misura, e lo cambi, tanto sono le chiavi quelle con la serratura europea, no? Così ho fatto, sono andato da Palmieri, gliel'ho preso, e 10 minuti cambiato la serratura. E appunto, passi un'oretta a parlare con una persona, io preferisco fare così piuttosto che stare coi social, capito già? Sì, e lì c'è abitato un amico mio in quel palazzo, lì è dove mi è scappato il pappagallo, dove ho ritrovato il mio pappagallo che me l'ha scappato, è un po' più giù, ho trovato quella parola più giù di quel palazzo che stai dicendo tu, e lì dove c'è quel circolo, no, c'è un circolo sotto. È nella zona alta, capito? È un palazzo, penso sia di nuova costruzione, non credo che ci sia lì da tanti anni, è proprio alla fine della via, nella parte alta. Sì, ti ho capito, perché io lì ci vado col cane, capito? Ci vado col cane, salgo lì, poi vado dalla pineta a volte, oppure giro, scendo, vado, passo dalla strada che porta su al monte e poi con la strada nuova che hanno fatto. Sì, è fatto bene, almeno ho passato un paio d'ore così, diversamente. No, ma io d'estate esco molto. Adesso d'inverno, magari il sabato notte, ci andiamo al karaoke a cantare con un amico e ci mangiamo una pizza o ci mangiamo qualche cosa così, qualche piatto composto, cosa così, e ci mettiamo a cantare, capito? Adesso sono due settimane che non andiamo perché c'è il turno di notte e lui lavora in ospedale, quindi aveva il turno di notte, ci ha fatto due turni perché ha sostituito anche un collega e quindi non siamo usciti, però solitamente andiamo così a mangiarci una cosa il sabato notte e poi ci facciamo una cantata e ce ne torniamo a casa. Ah, quello già è buono, dai, quello già è buono, come dice il proverbio, canta che ti passa, no già. Ah, io a me mi piace molto cantare, ma diciamo che un po' mi vergogno davanti a tutti, però a casa lo faccio tranquillamente. Sì, che si tratta di farlo per dire tutti insieme, tipo come si fa là dove vado io, c'è uno che canta e gli altri cantano insieme a lui, capito? Allora va bene, canta anch'io, ma cantare da solo non mi piace perché mi vergogno, la verità. Ma se vado in casa di amici, per dire che c'è il karaoke, io ho un amico che c'è una villa lì vicino al bivio per andare a Plattamona, lì sotto i Bidriaci c'è una villa e lì c'è tutto l'impianto, ma un impianto mega galattico, e ogni tanto cantiamo anche lì e davanti a loro canto tranquillamente, però ho gente che conosco quindi non me ne frega nulla, ma diversamente ho paura di emozionarmi, di sbagliare, capito? Quindi sono canto. Allora canto io, dai. Millo mi, lui è un altro canterino, mi Antonio. Antonio canta in questura. No, non canta in questura, canta un karaoke. Sta scherzando, Antonio. Bene ragazzi, io c'ho da fare una commissione, se ci siete dopo quando rientro una ventina di minuti, già mi fa piacere scambiare quattro chiacchiere con voi, quindi niente, mi assento un attimino e prima che rientrino gli altri della compagnia familiare, capito, devo andare a prendere un po' di spesa qua vicino, torno tra una ventina di minuti, mezz'ora massimo se ci siete. Ciao Gianni, ciao Antonio, devo uscire perché sennò poi diventa troppo tardi che devo preparare la cena, sono le 17:50, poi già sono ai fornelli, già sarò qua alla radio. Paga per Carlo, dai, vai tranquillo, non so se mi trovi dopo perché io mi attacco qualche laggia, lo sai, e quindi faccio un po' là. Non lo so se mi trovi, ma comunque per il momento ti saluto, dai, e poi magari se ci sentiamo. Buona spesa, buon tutto, buona passeggiata, avanti a tutti. Salutone Carlo, ce la risentiamo, ciao ciao. Ehi, ciao, a più tardi, ciao ciao. Ehi, allora, già. Cosa tu? Già, ti ho mandato un piccolo video, sto mandando. Sì, perché c'è il telefono là che sta scaricando, dopo lo guardo perché sta caricando il telefono, tu. Ce l'avevo scarico, l'ho cantato e l'ho tutto scaricato. Kappa. Comunque adesso non ci sentono più quelle saturazioni strane. Quelle? Le saturazioni strane non si sentono più. No. Meno male. Cavaliere. Come va questa radio, Antu? Questa qui è il Cobra. Una bomba. Questo qui è di lusso vino. Di lusso sì. Tu pensa che nuovo questo costava 700 euro. Una bestiolina. Va molto bene, dai. Fa tre mien. Ma non è traiciuto a sera. Hai stasi da giuro, sempre così, se non ne trovi tu, non ne trova nessuno. È sempre così. Oramai la gente se ne frega, ascolta, passa il tempo ascoltando gli altri e non c'entra. E vai ballista. Ma lui? Chi è? Antonè, tu sì. Vai coccomane, svegliami. Vai coccomane. Coccomane sei tu. E me, non parli. Ehia, deve essere anche franco. Vabbè, coccomane. Vabbè, cucumetto. Vabbè, frataiolo. Ciao Antonio, ciao Natalia, ciao Gianni, buonasera. Ciao Frank. Ciao Natalino, vi senti tutti e due, vai. Siete in tandem. Ma io sono al computer, sto facendo cosette, alcune cose. Ti ha pagato. Ma in macchina sì. Ma no, sono a casa. No, ma sono al computer perché ce l'ho vicino alla radio, quindi sto facendo computer radio. E sta chattando, non ho capito. Ma bacia le cose. Ah! Adesso ho risolto con la cosa, con la saturazione, è l'alimentatore che non andava più. Vendici l'alimentatore 60 ampere. No, faccio da 30 buono, però adesso ho messo le cose a posto. Io qua ce l'ho da 50 ampere. 50 ampere. Ma quale c'è? Quello dei cinesi? No. A me veramente non è cinese, non lo so se è cinese, però li ha comprati in blocco un amico per i ripetitori, mi ha detto se ne vuole uno, ne ho comprato due, uno l'ho venduto un amico e l'altro l'ho venduto io, tutti e due da 50 ampere. E vanno bene già qui. Sono brutti fra, a me mi piace più con gli strumenti e cose, ma ce l'ho con gli strumenti, ne ho due. Adesso uno lo uso solo per una cosa e l'altro e gli altri li uso per gli apparecchi. Ah, tu comprendi, io ho il muletto qua. Il muletto? Ah, quello fatto io. Ma lì si è tutto modificato, va, perché quello ci ha aggiunto altre 2N3055 e praticamente l'ho portato quasi a 40 ampere. Gli è cambiato che cosa? Il condensatore? Negativo, gli ho aumentato i finali di potenza che c'erano dietro, ne ho messo altri due. E va bene così. Va bene, Natali bene va. E te credo, ognuno di quei finali c'ha 5 watt. Cioè, ti avrei dato invece a me, si l'ha abbigliato tutto lungo, tutto gatto verniciato, tutto fatto bene. Ma venne più vernice già. Oramai tutto tappezzato bene con la carta carbonio, tutto adesivo fatto bene, mi Natalino l'ha visto. E perché è brutto la come l'avevo fatto? No, ma dico, gli ho messo quella pellicola, almeno non si graffa più e anda benissimo. Recito di lusso, bello, proprio nuovo. Ma non si stacca con la carta adesiva. Ma cosa, dici Natalia come l'ho fatto. Va arrivato in coso, va arrivato, come si chiama, come fanno le canne da pesca, in quel materiale che fanno le canne da pesca, in carbonio. Ho capito come. È uscito nuovo, non si graffia, lo pulisci subito, capito? Invece la vernice poggiava che cosa si graffiava, invece in questa maniera rimane sempre bello, pulito e ordinato. E ti ho fatto anche baracchini così, no? Cappagappa, sì, ho fatto tutto il 48, tutto così, tu lo devi vedere. Adesso l'unica cosa che devo fare è il 48 e metterci il LED verde nello smitter. E dove l'hai comprata questa carta a carbonio? Natalino già lo sa dove l'ho comprata. Sarà un mistero dove l'hai comprata. Basta andare su internet e le trovi subito. Ma dico a Sassari dove l'ha presa. L'ho presa dai cinesi già, l'ho pagata. Allora c'è quella da 3,50 euro oppure c'è quella da 9 euro, ma è un bel largo, un bel grande. Praticamente ti fa un cofano di macchina. Bisogna invadisci. C'è bella come colore. Ma non era al carbonio, ma bella veramente. KK, hai fatto bene, fra. Ogni tanto bisogna riattivare le cose e rimetterle in sesto. Avanti, alta. Eia, andrà bene mera. Ma lì, praticamente il 48 l'ho tutto smontato per farlo, se no è un casino. L'hai preso dall'interno, l'hai cominciato. Tutto fatto bene, la mascherina, tutto nero l'ho fatto, tutto luce. Adesso devo mettere la luce del LED il LED verde e quando schiacci diventa rosso. È più bella blu. Cosa? È più bella blu. No, mi piace il verde. Blu no. È bello praticamente tu adesso da accendere, non è verde, quando vai è importante si illumina il rosso, capito? C'ha due LED, dimmi. Il mio era blu e diventava rosso. No, c'era un LED multicolore, mi pare. Il mio era blu e poi come schiacciavo diventava rosso. No, io li faccio con la lavoretto io. Ma li sentite voi questi qua? Che come arrivano forti in banda laterale? Io non sento nessuno. Io li sento, mamma mia. Ehi, dove si prende splatter? Perché qualcuno c'è. Io non sento nessun altro, buh, o vicino a te. Va, sono 9. Tu fra di sì. No. Nemmeno io, tutto limpido, recolaro. Tre, me ne ho due. Ciao. Fra, come sto uscendo di radio? Qua sei in 35, radio 5 è buono. Già va bene allora, già va bene. Amplificata, si sente bene l'amplificazione, se no l'alzo, perché qua amplifica ancora, così amplifica di più. Ma dite, potete il microfono radio costruito già. Addirittura sentivo, no, era uno sul 9 che mi stava sbloccando in mappa. Più di 9:20 mi stava splatterando il canale 10, ecco perché sentivo casino. Ma ti faccio sentire questo microfono che ho fatto, se ti piace, eh. Ehi. Ah, salta. Guarda se mi sentite. Ciao, com'è? 1, 2, 3. Ciao, va bene. Va bene? Eia. Amplificato questo qua. Secondo te non è amplificato? Sì, è amplificato, ma non più di tanto. Va bene con la radio e cose, ma di amplificazione non ne ha molto. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ora. Già va bene, fra. Non è super amplificato, ma va bene. Ne ho sentito più forti, ma la radio è buona, dai. Ehi, più forte di questo. Ora, sto parlando in distanza, eh. Ah, è quello. Prova a parlare vicino. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E adesso già sento più forte. Sto parlando lontano, capito? È per quello. Ora. Facci porra. Dixon. Voilà, voilà. Che, avanti. Voilà, voilà. Chi è? O mio, o tu sei? Ora, yes! Signore. Ciao a tutti! Scusa, buonasera. Buonasera, buonasera. 9.30 a Radio 5. E a che tu lo sei lievitato? Hai fatto rito, cazzo, 9.30 a Murdu. La tenne muta tu. Eia. Bellissimo. Buonasera Torino. Abbassami la greca. Ciao a che sei Gianni, detto Air Furious. Qui che c'è Natalino anche Franco. Ciao Natalina, ciao Franco, ma anche chi vuole la manetta, l'ho già preso il suo microfono. Mi pare dietro un cacciaro, gà. Non è una manetta, Tony. Guarda, la manetta è così, qua. Oh, qua, in giù, tri, for. Così a manetta. No, scopri, tenuta, dai. Siamo a Sassari, siamo. Con la voce tua, tranquilla, serena, pacifica, ci sentiamo lo stesso. Siamo la manetta, scopri, di un piffero, gà. È troppo forte, abbassa un po'. Ecco, vedi, che tu me lo dici. Quando te lo dice pure non ci credevi. Guarda, adesso va bene. Fra poi adesso va un video, dai. Cioè, fra poco mi sentirei conosciuto e poi vediamo. Franco, Sacuno, via avanti. Ciao Tony, buonasera. Infatti, il gruppo vuoti già. Vabbè, io c'avevo la notizia. C'avevo il volume basso, è per quello che... No. Ma ti ho fatto caso. Quel microfono che c'ha Gianni, va bene, per uno che ha l'otite. Natalino. Ah, Natalino non c'è. Beh, era giù che preso Marino. Vabbè. Comunque già, non c'è andare più lì a Protollella, che ti fate male le pasti. Ehi, già sono guarito, sta quando sono caduto non sono più tornato, lo sai. Sono un segno da ragazzo. No, non è quello, però è capitato così. Non ci sono più tornato dal giorno che sono caduto. Chissà cosa ne è pensato, lui si è fatto male al virus, sarà ricoverato. Quelli chissà cosa l'ho pensato, perché mi hanno visto che si è spostato il marmo che c'è dove li dai su, li dai dove metti, dove c'è la cassa. Quel marmo lì l'ho spostato come ho dato il colpo. E allora ti conviene passare e dire, oh bambino che sono vivo, e ne approfitti di comprarti un bobolone, gà. No, che poi sono rotto il mamma, me lo fa pagare. Già, l'ho rotto il mamma. Avanti, Antonio. Gamba, forse conviene che non mandi. E se no si mangia le macchie. No, se no ti fate mangiare un maimaro. No, non l'ho rotto, non l'ho spostato, bu. Vabbè. No, voglio ci trovo perché non so, ecco, ho preso l'altro giorno, ho preso un caffè macchiato e due frittelle. Cazzo, non c'era crema di nulla in quel bar che c'è lì da Ditali. Crema, no? Ho detto ma crema non ha detto che se fosse con la crema, e non so con la crema, no, non ce n'è crema qua. Proprio una puntina. E tanto tu non ne puoi mangiare, sei diabetico. E a Tatalino, ciao Tatalino. Anche tu puoi mangiare pasta e la mangi lo stesso. Come non ne posso mangiarmi, non me la faccia salire a 300 se mangio la pasta. Io la mangio perché non mi fa salire la glicemia alle stelle. Anche a me non me la fa salire lo stesso, perché la Tatalino c'è quello che ho io, uguale identico. Mentre invece tu c'hai il catabubo, ti fa salire a 400. Guarda che l'altro giorno a me mi è sceso a 50, stavo spaventando, stavo tremando. Ti mangiavi qualche cosa, si vede che tu vivi a 50, ti mangi qualche cosa per parlazzare un poco. E non puoi stare con la diabete a 50, no? Esatto, perché è pericolosa, vai a Portolella e ti sale subito. E infatti così ho fatto, mi ho mangiato subito qualche cosa e un po' mi è salita, dai. Mi ho mangiato la frutta, un arancio, e... però intanto mi sentivo a tribuli davvero misurato a casa a 50, più come ho visto a 50 mi sono deve essere cagato sotto, ho cominciato a tremare, ho detto mamma mia, non che mi sono contendendo mai, bisogna che fosse una cosa, sennò mi acciappare in terra. Vai in coma, vai, se vai in ipoglicemia vai in coma, stai attento, quando ce l'hai così basta, mangia qualcosa. Aspetta un attimo che hanno suonato. Ci vai d'accordo, un gran pasco di buona. 50 non era mai scesa la vita mia, nata lì. Massimo mi scendeva a 60, 65, ma 50 mai. E tu l'hai fatta apposta per bagnare la macchia, dai. Allora sai se vuole pesca, viene di Crema, dove devi andare, lì in via Pascoli, c'è Murito, c'è, prova a prendere quella pesca, tieni lì che gli va. Ma non le paghi come le paghi la portolella, e poi la portolella sono ben divani, sono buone e sono anche grandi, piene di crema, ma cremose, baro. Sì, ma le pesche non c'è la crema dentro però. Ma tutti i dini ci sono buoni, che si muri, tu lascia perdere. Ehi, da portolella, ehi, sono andato io a prendere due pesche, e non ce l'aveva la crema dentro, non asciutti. Che io per pesche non ho mai preso, io prendo, guarda, ciabatte, frittelle e coso, come si chiama, e cannoncini, prendo quelle pastine perché se ne sono belle cremose. La ciabatta è buona, bene, diplomatico, quello che vuoi, però come pesche non la lascio desiderare, io l'ho preso quant'è, domenica mattina, perché la Conad non ne aveva, ho preso i cestini che tutto panna, ah, quanto sono buone, con la frutta sopra, è tutta un'altra cosa. Franco! Ma Franco si è sposato, ha preso il caffè. Tortine mi piace a me. Non ti piace la teatro? Sì, le tortine mi piacciono. E te pure giriato sì. Ambe di voce scendeva a ridere di Manzano, da Dramaggio, passava in Chibi da Mara, si vede con Corcia, prendono quelle tortine, cazzo, me ne mangiava lui, mamma mia che buono. Sì, facci piano a parlare di queste cose perché sennò fra una cosa Gianni viene a Puglia e scende il compagno 2 o 3. Tu che hai filato i rubissimi da sanguino. Chi si è fregato da solo, e si è andato a Protonella a prendere le pesche, chissà quanti ne biliardi. No, no, due solo, perché la persona in cui avevo io gli piaceva i cestini e anche le pesche, e le ho preso, siccome ancora le pesche non le fanno, perché c'ero io domenica mattina, e allora sono detto io ci vado a Protonella, ho due bici, e mi ha detto, non ce n'è crema per me, e cosa ne so, così di fatto non le piglio più. Arrivo a Sosso. Cosa? 9:20 arrivi a tu? Ho fatto la prova poco fa, 9:20 a Sosso. Se tu gli dicevi di mettere, la prendeva la siringa e te la metteva. Che te ne hai messo a tu? La ringo, modificata. Uh-huh. La ringo è una mezz'onda, Io stesso ce la ringo, l'ho mezzo modificata, adesso devo aspettare che insomma calma un po' il tempo e sono un po' libero che sono troppo incasinato. Adesso mi sono preso un altro impegno, grazie per 10 giorni, di andare a fare fisioterapia, il tomoga, vabbè. Però in compenso insomma, vedo un po' di lacrime della zia. È stata modificata perché aveva delle pecche, sono state corrette e funzionava la grande. Sì, se quella lì che c'ha l'aspirare solo senza radiare, quella lì è. Sì. E ce l'ho anch'io, sempre con circuitata a massa, stazionare al massimo. Allora io ho fatto tutta la modifica diversa adesso. La devi modificare, sono adesso a me mi funziona il radiale centrale, lo stiletto centrale e tutto quanto è il polo caldo praticamente. La massa la piglia separatamente e era un carucco. Capo. Ma è stato bene a Puglia, va bene così, perfetta. Io ho sempre la vena qua e mi va troppo bene. Stiamo disegnando tutti. E poi tu Tony non hai pensato la manco per 5. Era giusto, capito? Non stai uscendo con la manco per 5, Tony. No, non è piazzata quella lì ancora, lascia perdere. Quando io ho il contratto, allora sono più tranquillo, allora piazzo anche il traliccio. Ho capito. No, pensavo che l'avessi messo. No, negativo. Comunque ti arrivo sopra bene anche con la vena. Sì. Eia, tu ti arrivate bene qua. Antonio ha lievitato. Vuol dire una volta metterla sul tetto, l'antenna c'è poco da fare, tu puoi avere l'apparecchio bello qua, tu vuoi, se non c'è un'antenna che esce bene sopra il tetto, è inutile che tu abbia un apparecchio buono per nulla. Sì, ma l'hai vista la